si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Ma guardi, forse è per una questione lombrosiana, ma con Giovanardi non sono d'accordo su nulla. Bel ragionamento, complimenti. Parlano... complimenti, un ragionamento adesso intelligente. Adesso lo finisco, mi faccia finire. Giovanardi, mi faccia finire. Adesso sviluppo il discorso se ne sta zitto. Parlano tanto di droga, spaventate, mi fa finire o no? Spaventate i genitori con l'incubo della droga e non l'ho mai sentito dire niente sull'alcolismo dei giovani che si stanno distruggendo ed è legale l'alcol. Sviluppi un discorso sull'alcolismo che è la droga legale italiana dei giovani, certo, e non venga qui a dire bofonchiate perché deve ottenere voti. E allora spaventa i genitori con la droga dei giovani. Bene, allora la droga fa bene, consigliate ai giovani la droga, rivedete degli zombie, rovinate Giovanardi, siamo seri. Lei è quello che decide quanto deve vivere uno, lei è quello che vuol decidere quanto deve vivere un malato, lei è quello per lo faceremo santo. Eccoci qua, buonasera a tutti cari ascoltatori, 18:33 minuti, ben ritrovati col Si Può Fare, buonasera ad Alessio Maurizi, 800 24 00 24. Devo dire che messi uno di fronte all'altro, Corona e Giovanardi insieme fanno molto ridere, forse presi uno per volta sono più pesantoni tutti e due, sono due ormai ospiti fissi delle trasmissioni da cui escono fuori sempre delle discussioni storiche, memorabili, il giorno e la notte, il diavolo e l'acqua santa, la fissazione per l'alcol e per la droga. Voi da che parte state? Legalizzazione o proibizione? 800 24 0024, anche se la discussione va a settembre. Hate and War, la canzone di oggi, è guerra secondo il Papa, che però getta acqua sul fuoco, diciamolo, su chi ha la teoria della guerra di religione, perché dice una guerra ma non di religione. Sentiamo il Papa. Diciamo, il mondo è in guerra a pezzi. Questa è guerra. C'era quella del 14 con i suoi metodi, poi quella del 39-45, l'altra grande guerra nel mondo, e adesso è questa. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra perché ha perso la pace. La cultura politicamente corretta del nostro tempo ci proibisce di citare Oriana Fallaci, no? La quale invece aveva capito molto bene cos'è l'Islam, che nel fondo è comunque intollerante, insomma. E punta a sostituirsi a tutte le religioni, quindi... Don Fanzaga di Radio Maria naturalmente la pensa diversamente. Il Papa dice, nell'audio non si sente, non c'è guerra di religione, c'è guerra di interessi, guerra tra popoli, guerra per i soldi, guerra per tutto quello che volete, ma non guerra di religione. Ha paura il Papa di parlare di guerra di religione. Dice il Papa, tutte le religioni vogliono la pace, capito? Tutte le religioni, quindi, come dire, non c'è nell'Islam niente che sia guerra contro di noi, anche se nel nome dell'Islam è stato ucciso un prete in Normandia. Don Fanzaga invece la pensa in maniera diametralmente opposta. Tutti i musulmani sono d'accordo sul fatto che comunque bisogna ottemperare, obbedire al comando del Corano stesso di Maometto, di sottomettere tutto il mondo alla signoria di Allah. Su questo punto tutti i musulmani sono d'accordo. Però quello che emerge dalle indagini in Francia è incredibile, abbastanza sconcertante. Tutti e due i terroristi erano già schedati, tutti e due gli attentatori erano conosciuti dalle forze dell'ordine come potenziali terroristi che si sarebbero radicalizzati seguendo i soliti percorsi del web. Uno dei due, lo sappiamo, aveva tentato di andare in Siria per diventare un foreign fighters. Quindi lo sconcerto è anche per questo, perché sembra che le forze di sicurezza, le intelligence, i servizi segreti, tutti insomma abbiano le armi spuntate. Questo è lo stato di diritto. Oggi la Francia ha detto il carcere preventivo per chi è un potenziale terrorista schedato con la lettera S, ve lo potete scordare, è da escludere. Difendiamo il nostro stato di diritto. Ancora Corona. Ascolto volentieri le trasmissioni TV e vedo questi esperti. Ce n'era uno l'altro ieri, esperto in sicurezza internazionale, e consigliava in un ristorante di metterci tutti vicino alla porta. Ma vi rendete conto che ero esperto in sicurezza internazionale? Buonasera Roberto Maroni. Buonasera. Buonasera. Presidente della Regione Lombardia. Senta, eccolo qua. Allora, tutti in questo momento cercano A, una interpretazione di quello che sta accadendo, B, anche delle possibili soluzioni. Intanto A, mettendo insieme Nizza, Monaco, Rouen adesso, ma ricordando anche che degli attentati dove muoiono tante persone ci sono anche in luoghi che ci sembrano lontanissimi, e in parte lo sono, la Siria, l'Afghanistan e altrove, qual è la sua interpretazione? Guerra di civiltà, guerra di religione, terrorismo, guerra psicotica, con questo senso di emulazione che spesso nasce dal web e che porta nel giro di poco tempo, sembra, a ripetere atti di terrorismo. Qual è la sua interpretazione, Maroni? Per me è guerra, è una guerra vera e propria che non si combatte come tradizionalmente si combattono le guerre schierando gli eserciti l'un contro l'altro, ma si combatte con dei soldati che se ne vanno in giro e che ammazzano in chiesa, tagliano la gola in chiesa ad un prete. E questa è guerra, come chiamarla? Non è solo terrorismo. Secondo me usare il termine terrorismo è riduttivo, è proprio una guerra e noi non siamo preparati a questa nuova guerra del terzo millennio e temo che sia continuamente sottovalutata. Sì. Ma però, di questo parliamo? Sì, sicuramente anche le armi che mettiamo a disposizione per combattere questa guerra contro questo nemico che fa tante vittime danno la sensazione che ci sia una sottovalutazione. Però le chiedo al contrario, non le viene in mente, pensando a, per esempio alla giovane età di alcuni di questi soldati di questa guerra, 17, 16, 18, 20 anni, che parlare di guerra di civiltà, a me fa impressione personalmente, perché sembra di trovarsi di fronte a delle persone molto pericolose, ma giovanissime, ed è difficile anche immaginare che ci possa essere una regia globale, dal Giappone alla Germania alla Francia. Lei che ne pensa? Scusi, prima guerra mondiale, 15-18, ci andavano i ragazzi del 99, quelli nati nel 1899, che avevano l'età di questi qua. I soldati hanno quell'età lì, non hanno 60 anni. Quindi anche se cambiano le forme della guerra, secondo lei resta esatto, questa costante? Esatto, sì. Loro stanno attuando una forma di guerra a noi sconosciuta, che si muove attraverso sistemi di comunicazione che usano i mezzi della tecnologia più avanzata, pur essendo le motivazioni le stesse di Solimano il Magnifico, e cioè di quell'epoca, no? L'epoca di Lepanto, E noi siamo assolutamente impreparati. Detto questo, c'è modo di contrastarli? Certo che c'è modo. Se la potentissima Europa, se la civiltà occidentale non riesce a fermare persone che erano già note alle forze dell'ordine. Questo è incredibile, queste... Maroni. Questo... Infatti, doveva mettere il braccialetto elettronico, cioè era condannato a mettere il braccialetto elettronico, il risultato è andato in chiesa e ha sgozzato un prete. Io non ho parole, veramente. Ma secondo lei è stato ministro dell'interno, quindi insomma di servizi di sicurezza, di intelligence, ma anche di semplicemente di come funzionano un po' quali sono gli strumenti delle forze dell'ordine? La Francia adesso ha dichiarato lo stato d'emergenza, ma cosa è mancato in Francia perché si potessero fermare delle persone che erano già conosciute, schedate, già state in carcere per quel tipo di reati, possesso di armi, dichiarazioni di estremismo, il viaggio in Siria? Cosa è mancato in Francia secondo lei? Lo dico da ex ministro dell'interno, le informazioni ci sono. La possibilità di intercettarli c'è, la capacità di intercettarli e di prevenire c'è, ne sono convinto, manca la volontà di andare fino in fondo, per una sorta di pregiudizio culturale, per cui non dobbiamo esagerare, non possiamo esagerare, sono ragazzi depressi, sono persone che vanno curate, è un po' quello che succede in Italia con l'eccesso colposo di legittima difesa, uno viene in casa tua alle 3 di notte e tu non è che gli devi sparare, gli devi dire scusi, beviamo un caffè, che cosa vuole da me? A, è armato, B, è un'arma vera o un'arma fe-? Queste cose qui, è questo pregiudizio culturale per cui poveretti vanno integrati e invece vanno schedati, vanno controllati, vanno espulsi. Ma per esempio, impedito loro di rientrare in Europa nel caso dell'attentato di Rouen, il governo francese ha detto non ci sarà carcere preventivo per chi come quei due attentatori era schedato con la lettera S, cioè potenziale terrorista, erano entrati dal carcere, uno dei due è uscito perché evidentemente in quel momento la giustizia aveva fatto suo corso, non c'erano altri motivi per tenerlo in carcere, però era sospettato fortemente di potersi radicalizzare. Lei quindi non è d'accordo col governo francese che dice non ci sarà carcere preventivo per queste persone? Secondo lei dove... carcere preventivo, ci sono tanti sistemi per prevenire, per evitare che uno esca e vada a fare queste cose. Uno è il carcere, ma ci sono anche altri sistemi di sicurezza, per esempio il braccialetto elettronico di cui si parla, no? Uno sta in casa e se esce fuori viene immediatamente segnalato, interviene la polizia e lo blocca, perché lo sa rintracciare dov'è. La tecnologia c'è, certo bisogna investire, bisogna comprarli, bisogna mettere dei sistemi. Quindi però ci vuole un piano di investimento mai immaginato per le forze dell'ordine, per l'intelligence, per tutto questo, anche in Italia. Certo, ma qualcuno poteva immaginare un anno fa che sarebbe successo quello che è successo, cioè che uno prende un camion e ammazza 80 persone, o che uno va in chiesa e sgozza un prete dopo averlo fatto inginocchiare, dopo aver recitato un salmo in arabo del Corano? Cioè sono cose che neanche nei libri di fantascienza, purtroppo è la realtà. E allora noi dobbiamo adeguarci, dobbiamo rispondere investendo molto sulla tecnologia, perché gli strumenti ci sono, la capacità c'è, bisogna volerlo e mettere da parte questo che io chiamo un pregiudizio culturale nei confronti di questi criminali assassini, perché sono dei poveretti non integrati, e allora bisogna chiudere tutti e due gli occhi, bisogna aprirli bene gli occhi, altro che. Un'altra cosa che si sente dire, no? Non possiamo controllarli tutti, i potenziali terroristi già schedati, ripeto, già schedati, quindi non parliamo di fantasmi, parliamo di persone in carne ed ossa che hanno cercato di andare in Siria per diventare foreign fighters. Non abbiamo personale, sarebbe inimmaginabile i servizi segreti per poterli seguire tutti, ma è possibile arrendersi così facilmente, no, mi viene da dire? Questa è una sciocchezza, guardi. Chiama big data, no? C'è la possibilità di fare tutto oggi, non esiste questa cosa. Negli anni 70 i servizi segreti, l'MI5 inglese, teneva sotto controllo tutte le telefonate che si facevano in Libia per cercare di beccare Gheddafi, e stiamo parlando degli anni 70, no? Riuscivano a farlo solo gli inglesi, figurarsi se non si può. Si può, e come? Si possono identificare quanti sono, 1000, 10.000, 100.000, benissimo, qual è il problema? Si prendono, si tengono sotto controllo, ma tecnicamente si può fare, basta volerlo. E il motivo per cui non si fa è quello che lei diceva prima, pregiudizio culturale che fa sì che si sottovaluti il problema? Ma basta leggere, no? Quello che si è che ha sparato lì l'altro giorno nel centro commerciale, poveretto, era depresso, e quella anzi era vittima dei suoi compagni, no, di bullismo, sì. Cioè vittima di bullismo prende la pistola e va a sparare e ammazza 9 persone. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi a me non mi interessa nemmeno se era vittima di bullismo, no. Anche l'attentatore di Rouen era seguito dagli psicologi dall'età di 6 anni, però arriva un momento nel quale diventa un potenziale terrorista, e allora lì dovrebbe cambiare la musica. A maggior ragione, visto che ci sono questi segnali, va tenuto sotto controllo, fari accesi giorno e notte. Che non vuol dire mettergli lì un poliziotto vicino, ma insomma oggi qualunque cosa uno fa si sa esattamente dove è, cosa fa un normale cittadino, voglio dire, no? Con la telefonia, con i sistemi di rilevazione, si può fare, tecnicamente sì. Bisogna volerlo, non è neanche un problema di investimenti, di risorse, per i soldi dire, ci sono. Se al governo ci fosse stata la Le Pen, la volontà politica sarebbe diversa e quindi le cose potrebbero cambiare, questo mi sta dicendo sostanzialmente, rispetto certo, a quello che sta facendo. Certamente Orlando. Sì, ne sono assolutamente convinto. È una questione di pregiudizio culturale che gli impedisce a questi qua di fare cose che tecnicamente si possono fare, sì. B, non hanno nessun problema, non creano problemi alle forze dell'ordine, perché basta mettersi lì e creare questi sistemi di rilevazione elettronica. C, aumentano la sicurezza in modo esponenziale, basta volerlo. Resti in collegamento con noi se vuole, facciamo una piccola pausa sul traffico. 800 24 0024, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 18:50, ben ritrovati ascoltatori. In collegamento con noi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Senta, il web, il ruolo di internet, le catene di chat nel web profondo hanno un ruolo fondamentale, ormai l'abbiamo capito, per radicalizzare questi più o meno lupi solitari, più o meno aderenti a cellule della jihad. Quale limitazioni bisognerebbe immaginare per il web? Per esempio, qualcuno dice sospendere i social network per 24 ore dopo un attentato. No, non serve a niente. Guardi, ormai il web è un mondo così vasto che o lo spegni in tutto il mondo, o se no è inutile, è solo un'ipocrisia. Bisogna controllarlo bene, e bisogna aumentare la capacità di capire il web. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ci sono nuovi sistemi, che so, WhatsApp. Adesso ci sono anche altri mezzi di comunicazione, di messaggistica, che non sono intercettabili perché non ci sono gli algoritmi a disposizione, tutte queste cose qua. E questi terroristi sanno sfruttare bene, sono ben attrezzati da questo punto di vista, e anche noi dobbiamo farlo, ma abbiamo le capacità tecniche per farlo. L'Italia, secondo lei, lo sta facendo abbastanza? Sì. Fida al ministro Alfano? Ma io mi auguro di sì, poi non voglio polemizzare, diciamo così. In questo momento non vuole sì. Posso dire, quando ero ministro, che noi avevamo fatto un'iniziativa molto forte sulla cyber security, sì. Con le poste e con altri, però non era rivolta, non c'era questa necessità a prevenire il terrorismo, ma era per la sicurezza. Ecco, ma cyber security, allargando il concetto a cyber security, è un campo su cui lavorare molto, perché si possono intercettare questi lupi solitari, chiamiamoli così, no? Basta, certo, che mettano un post, basta che mettano qualcosa, e dopodiché accendere il riflettore, 1000, 10.000, 100.000 non mi interessa. Ma la vita di un prete di 86 anni vale un investimento, e la vita di tutti noi vale. La vita di tutti, certo, certo. Senta, oggi Le Monde, il quotidiano francese, dice che non pubblicherà più i nomi e le foto dei terroristi, perché, questa evidentemente è la loro teoria, cercano anche un momento di celebrità. È d'accordo con questa strategia? Ah sì, mi pare che così abbiamo risolto il problema, se Le Monde non pubblica più. Guardi, questa è una fesseria, gente qui, secondo lei? Tra i giovani fino ai 30 anni i giornali ormai li legge l'1%, tutto il però resto sanno, è televisione e web. Questa è la decisione di Le Monde, però potrebbe farlo anche la televisione, per esempio, o anche il web, decidere di non pubblicare per non dare pubblicità. Non pensa che qualcuno di questi terroristi cerchi anche questo? Ma io mi chiedo, è possibile che si decida una cosa del genere? Cioè, voglio dire, quei video che abbiamo visto lì in Germania, quelli della erano messi in rete da un passante qualsiasi che passava di lì e li ha visti, no? Possiamo impedire questo? No, mi sembra. Quindi non serve a nulla, non serve a nulla. Risposta come a dire adesso abbiamo risolto il problema, ci pensiamo noi. Invece non funziona così, bisogna investire sull'intelligence, bisogna creare un corpo specializzato in Europa di tutte le polizie che combattono antiterrorismo o anche di più, insomma. Ma ripeto, io sono tranquillo da un certo punto di vista, perché so che ci sono le capacità tecniche e gli strumenti tecnici. Ci vuole qualcuno che decida, ci vuole un governo che non sottovaluti, parlo del governo francese. E secondo lei il governo Renzi è sulla stessa linea d'onda di quello francese da questo punto di vista? Mi pare di sì. Il governo Renzi dovrebbe fare un'altra cosa, prevenire, e prevenire vuol dire fermare i flussi dall'Africa, perché come hanno detto anche le organizzazioni internazionali, tra quelli che arrivano ci sono dei terroristi. C'è stata un'inchiesta che ha evidenziato che c'erano degli infiltrati. Esatto. Sì. E allora il compito del governo italiano prima di tutto è quello lì, perché arrivano da noi e vanno in Francia. Bene, impediamo, evitiamo che arrivino, così evitiamo che vadano ad alimentare le organizzazioni terroristiche. Senta, a proposito di profughi, oggi è stato un vertice a Milano in prefettura, credo oggi, il sindaco Beppe Sala ha confermato che a settembre ci saranno profughi ospitati nell'ex area Expo. Lei è contrario, perché? Allora, è stato ieri, noi Regione non siamo stati né informati né invitati, e già questo mi sembra una cosa un po' singolare, perché insomma qualche competenza ce l'abbiamo, e in ogni caso non si può dire la Regione Lombardia non fa quello che deve fare e poi neanche invitare. Perché Milano ha una ospita più che nelle altre città mediamente, questo è quello che dice Sala. Sì, ma può anche essere, ma dopodiché parliamo della Lombardia, ma che senso ha non invitare la Regione Lombardia? Abbiamo noi le competenze sulla protezione civile, abbiamo tante competenze, è stata una decisione politica di escluderci che francamente non capisco, non accetto e non capisco. Detto questo, però, seconda cosa, non si tratta di profughi, si tratta di immigrati clandestini, è ben diverso. Terza cosa, e il campo base, io sono assolutamente contrario, ma per un motivo molto semplice. C'è un accordo di programma sottoscritto da tutte le istituzioni, compreso il Comune di Milano, che dice quel campo base di proprietà del Comune di Rho, e l'impegno di tutti, delle società Expo, Air Expo, è di smontare il campo base e di riconsegnarlo al Comune di Rho. Il sindaco di Rho ieri, che è del PD, ha detto esattamente queste cose. Quindi non si può fare quello che Sala vuole e quello che il prefetto dice di voler fare dal primo di settembre. Non si può fare. Cioè il prefetto non può deciderlo, il prefetto non potrebbe deciderlo. È illegale, se lo fa, viola un accordo di programma sottoscritto dalle istituzioni, e allora, compresa la Regione Lombardia, e se lo fa io mi attiverò perché venga tutelato quell'accordo di programma in tutte le sedi giudiziarie possibili e immaginabili. Questo è, c'è un accordo, è stato sottoscritto, bisogna attuare quell'accordo, punto. Va bene, grazie, buona serata Roberto Maroni, grazie per essere stato con noi. Grazie, allora, buona serata. Abbiamo un minuto prima di chiudere. Federico da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. La mia riflessione è questa, io seguivo l'intervento del presidente Maroni. E lui diceva che questi fatti, questi attentati sono fantascienza, no? Immaginarsi un camion che sul lungomare di Nizza ha fatto quello che ha fatto. Ci dimentichiamo però che ciò che è accaduto nel 2001 negli Stati Uniti. Quindi penso alla fine non è fantascienza, perché era fantascienza 2000 tanti anni fa quello che è successo. Quindi? A New York, cioè, non si può immaginare che questi attentati, questi fatti siano inaspettati. Ce le dovevamo aspettare, anche a distanza di anni, questo tipo di interventi. Va bene, ecco, grazie, grazie, buona serata, ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, ci ritroviamo tra poco, subito dopo 800 24 0024, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci sono le condizioni per costruire una forma di Islam italiano in cui il governo e lo Stato non entrano nella dottrina di fede islamica, ma dicono con chiarezza: qui ci sono delle leggi che valgono per tutti, se a te non va bene, via dal nostro paese. Eccoci qua, 19-18 minuti, buonasera ad Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare, 800 24 00 24, la via italiana del governo italiano annunciata più volte dal ministro Alfano all'Islam moderato, al dialogo con la componente più moderata dell'Islam in Italia. Tra le varie regole che Alfano vuole introdurre, la predica in italiano, l'albo degli imam nelle moschee. Già, però, per esempio, la predica in italiano è... in base alle prime bozze di questo accordo è facoltativa, cioè se poi un imam la vuol fare in arabo, per esempio, non gli si può dire nulla, ma allora cade tutto, caro Alfano. Comunque, vi ha convinto? Secondo il presidente della Lombardia invece, Maroni, della Lega, e lo sapete che la Lega è sempre in prima linea a fare un collegamento tra i luoghi di preghiera, tra le moschee, i centri culturali e il terrorismo, dice: è solo perché c'è un pregiudizio culturale in Francia, ma che c'è anche in Italia con il governo Renzi attualmente in carica, che fa sì che invece di reprimere, di tenere sotto controllo i potenziali terroristi che vengono dalle moschee, dal mondo islamico, che sono ragazzi che si sono depressi, curiamoli, aiutiamoli, integriamoli. È questo l'errore, secondo Maroni, questo è l'errore che si fa e che impedisce che si possa fare una vera repressione, un vero controllo ed evitare attentati. 800 24 0024. Ancora si parla degli stipendi alla RAI. Allora, se questa dirigenza continua così, sarà la dirigenza che a furor di popolo farà privatizzare la RAI. Ci sarà una valanga popolare che dirà: la privatizzazione della RAI. Noi siamo in grado di dire questo, di vivere solo col canone, non con la pubblicità, perché la RAI è un'azienda pubblica che deve fare cultura nel paese ed è molto importante che sia finanziata da chi è libero, ovvero i cittadini. E quindi rinunciare totalmente alla pubblicità. Si può rinunciare totalmente alla pubblicità. Eccoci qua, andiamo con Massimo che chiama da Bari. Buonasera Massimo. Ciao. Massimo non c'è. Cioè Massimo? Pronto? Eccolo qua, tocca a te Massimo. Buonasera, sono in linea? Non sì, Massimo, sei in linea, devi parlare, allora devi dire quello che pensi. Chiamavo per integrare l'intervento di Maroni sui sistemi che esistono per combattere questa forma di violenza, che io non chiamo terrorismo perché non è terrorismo, è una forma di violenza di pazzi scatenati che devono essere fermati nel più breve tempo possibile. Allora, Maroni diceva che esistono dei sistemi software per intercettarli. Esistono, sono efficacissimi, lo Stato di Israele li adopera da tantissimi anni. Ovviamente questo richiede che un po' di privacy la dobbiamo perdere un po' tutti. Sì. Sistemi come quelli che io non voglio ripetere il nome, ma che Maroni li ha nominati, sono sistemi che sono crittografati. Ora, se è crittografato, uno tranquillamente può parlare, diciamo, al telefono con una buona linea 4G ed essere completamente trasparente a qualsiasi controllo. Ora, ovviamente, queste cose vanno eliminate, altrimenti non si può garantire la sicurezza. In questo momento privacy e sicurezza non procedono nella stessa direzione, ma in direzioni opposte. E questo è sempre così, questo è sempre così, certo. E certamente certo. Qualcosa bisogna bisogna fare in quella direzione, anche se poi c'è chi dice che non bisogna arretrare sul fronte dei diritti, dello Stato democratico, eccetera, eccetera. Va bene, però sono discorsi, perché poi in pratica i controlli ci sono, la polizia ha degli strumenti, per fortuna, e bisogna che questi strumenti siano utilizzati bene, sempre di più. Massimo. Perché se i singoli stati lavorano in modo singolo, sì, è facilissimo passare da uno all'altro. Io mi compro una SIM francese e parlo dall'Italia. L'Italia non mi intercetta, deve fare triangolazione sui cellulari e domani mi prende. Io nel frattempo ho comunicato. Ora, il sistema deve essere globale a livello almeno europeo, e gli strumenti ci sono. Va poi bene. Esistono anche le trappole, nel senso che se io sono pazzo e cerco su internet una pistola o degli esplosivi o dei sali di sostanze che sono facilmente trasformabili in esplosivi, vuol dire che anche uno Stato organizzato, una polizia organizzata li può cercare sulla rete. Se li intercetta, li arresta. Invece se non vengono fatte queste ricerche, un pazzo qualsiasi può andarle a cercare sulla rete e costruirsi la sua bomba o costruirsi la sua arma. E questo succede. Ok, Massimo, grazie, buona serata. Luca da Roma. Luca, eccolo qua. Senza voler scendere, diciamo, a livello di discorsi da bar, io il discorso, cioè, condivido in pieno l'ascoltatore che mi ha anticipato. Però io vorrei aggiungere una cosa. Io fin dall'inizio, quando Obama ha cominciato a smantellare Guantanamo, ho francamente nutrito dei dubbi, nel senso che sono convinto che quel luogo di detenzione abbia salvato il mondo da svariati altri attentati pesantissimi da parte delle organizzazioni terroristiche, non dei pazzi di turno, ma proprio organizzati in modo centrale. E penso che sia assurdo che delle persone schedate per reati specifici non vengano comunque, visto che siamo in una situazione di attacco, no? Se non la vogliamo chiamare guerra, e non vengano concentrate per precauzione. Mi domando perché non si mette mano magari a una legislazione speciale sulla falsariga di quelli degli anni di piombo, per cui magari gli stessi musulmani o stranieri che sono sul territorio potrebbero avere magari dei vantaggi a denunciare anche semplicemente situazioni che potrebbero essere foriere di pericolo o di atti di terrorismo. E poi così sì, mirare i controlli da parte dei servizi segreti e da parte delle forze dell'ordine. Però credo che un luogo, io parlavo l'altro giorno... Cioè tu dai particolare importanza alla questione di Guantanamo. Beh, diciamo una cosa, che questi non sono comunque dei soldati, sì, regolari, per cui le convenzioni internazionali, sì, sicuramente non gli appartengono. Se io dico qualche schiaffone, magari si riesce a sventare qualche attentato, arrestare prima qualcuno di questi qua. Sì, guarda, può darsi, Luca. Di fronte a quello che si è capito di quello che è accaduto in Francia, non so quanto possa entrarci un discorso come quello di Guantanamo. Bastava tenere sotto controllo questi due che erano già schedati come potenziali terroristi. Cioè, quindi basterebbe, io dico, una banalità, una bestialità. Sì, ma perché i servizi segreti non assumono 10, 20, 30, 40 mila persone in più? Sono soldi pubblici, li investiamo per la nostra sicurezza e tutti questi potenziali terroristi gli mettiamo qualcuno alle calcagne, ma è difficile, a me non sembra difficile, senza necessariamente metterli tutti in una prigione e buttare via le chiavi. Oggi la Francia ha detto niente carcere preventivo per questo genere di persone. Grazie Luca. Adesso facciamo un salto in vacanza, saliamo sul treno insieme a Jacopo Melio. Si potrebbe andare tutti quanti al mare a Viareggio. Ciao Jacopo. Buonasera. Jacopo Melio, studente fiorentino di scienze politiche, blogger in carrozzina, autore di una campagna per poter prendere il treno, che si chiamava Vorrei prendere il treno, è diventata una campagna, era una richiesta che tu facevi a chi gestisce i treni nella tua regione in Toscana, perché per un disabile spesso questo è impossibile. Sì, in realtà oggi è diventata una vera e propria onlus con la quale cerchiamo di sensibilizzare alla sensibilità a 360 gradi, gradi, non quindi solo... non solo quello. Comunque quella iniziativa andò bene, noi ne parlammo, si può fare tante volte, sei riuscito a smuovere le acque con la tua, possiamo dirlo anche, la tua personalità, la tua carica, e la tua simpatia e il fatto che comunque hai creato tutta una rete di relazioni. Anche questa volta, di fronte al post, anzi alla recensione su TripAdvisor di un utente di un luogo di vacanza che ha scritto un post contro il fatto che dove si trovava lui c'erano troppi disabili, secondo lui, che lui non voleva che suo figlio sarebbe rimasto impressionato vedendo al mare tutti questi disabili in carrozzina o meno che stavano lì con lui, e con un linguaggio tutto forbito chiudeva dicendo: bastava che la direzione mi avvisava, a parte l'errore d'italiano, e avrei spostato la vacanza in altra data, sto valutando o meno di intraprendere una via legale per eventuali risarcimenti, grazie di tutto. Cioè, linguaggio pulito. Però una cosa orrenda ha detto questo signore, che offende prima di tutto lui, credo. E tu gli hai risposto? Sì, offende soprattutto lui e la sua presunta intelligenza. No, mi è stata segnalata questa recensione, non si sa se è reale o semplice provocazione, fatto sta che a noi ci piace togliere... Tu dici che addirittura poteva non essere vera, ma una provocazione? Beh, non si esclude l'idea che sia... un semplice troll di internet, però insomma l'importante non era tanto puntare il dito contro, sì, la persona in sé, ma contro a un pensiero che poteva essere benissimo generale, e allora ho voluto insomma togliere l'occasione negativa per fare una riflessione in positivo, insomma, perché, mettendo... Sì, perché secondo te questo pensiero, tu dici, questa persona quantomeno ha in qualche modo, se vogliamo, il merito di avere sollevato una questione che molti pensano, cioè non voler vedere magari anche quanto può essere fragile anche per certi aspetti la nostra vita, perché comunque parliamo di persone che hanno dei disagi e vivono già una loro sofferenza, e quindi non voler vedere questo, girare la testa dall'altra parte, è una cosa che pensano più molte persone, secondo te, Jacopo? Beh, sicuramente non voglio essere ipocrita, cioè, tantissime persone avranno sicuramente quel pensiero lì, ma perché si tende oggi troppo a immaginare il disabile come la persona che poverina, in carrozzina e soffre, ecco, c'è un po' questo pregiudizio e soprattutto la paura verso ciò che non conosciamo. E ecco, allora, sì, questo penso di sì. Si parla tanto, per esempio, di tolleranza, no? Ci si riempie la bocca sul fatto che dall'altra parte di questa guerra ipotetica ci sono persone intolleranti, gli altri, loro, che appunto sono intolleranti nei confronti dei nostri valori. Però poi in fondo qui la questione è proprio quella, cioè che cos'è la tolleranza se non accettare chi è realmente diverso da te? Perché è facile accettare chi è come te, no? Non ci vuole. Noi facciamo capire, o almeno cerco di far capire, che in realtà non esiste nemmeno la disabilità, se uno ci pensa bene, perché chiunque poi ha delle abilità e delle difficoltà a fare qualcosa, c'è chi sa nuotare, c'è chi sa dipingere, quindi... Tu dici sono tutti ragazzi speciali, ognuno con... chiunque di noi è unico, e quindi credo che merita di essere vissuto e conosciuto semplicemente per quello che è. Io sono Jacopo, non sono un ragazzo in carrozzina, la mia carrozzina vale tanto quanto un paio di scarpe di una persona che può camminare, però ho dei pregi, ho tanti difetti, e ognuno appunto è unico, e avere paura di un disabile significa semplicemente avere paura di una persona, e non meno perché insomma uno deve avere paura degli altri, anzi credo che nelle differenze si possa solamente arricchirsi. Ti faccio sentire un attimo l'audio del titolare della struttura, che offre una settimana all'autore di quella recensione se cambia idea e se chiede in qualche modo scusa. Sentiamolo. Chi ha fatto questa recensione? Anche se chiedono scusa in modo anonimo, io li ospiterò per una settimana gratis. Ma io rispetto assolutamente, sì, la decisione del signore, che sicuramente lo fa nella sua buona fede e nella sua volontà d'animo. Non credo che questa sia la soluzione al... che sia un modo corretto. Io credo che le persone che sbagliano, chiunque può sbagliare, che però è giusto riconoscere lo sbaglio, così come è giusto riconoscere quando uno si accorge di aver sbagliato. Da qui a premiare. Sì, vabbè, ma questa era, credo che sia più che altro una cosa che è stata detta magari al microfono di un giornalista che era lì a cercare di capire questa storia meglio. Senti, Jacopo, tu in vacanza ci vai quest'anno? Sì, dove vai? Sì, fortunatamente vado, perché sono lì in scena due settimane di Melontite, quindi un po' di mare. Sì. Un po' di mare fa bene, vado all'Isola d'Elba e spero di non dare fastidio a nessuno. Ma assolutamente. Senti, vogliamo dire a chi immagina di così pensa di non volersi rovinare il panorama avendo di fronte a sé qualcuno che non gli piace abbastanza, quanti problemi avete già voi, per esempio, ad andare in vacanza? Quanto è difficile? Quante difficoltà devi superare per treni, barriere architettoniche? Non mettiamoci anche quelle mentali, no? Esatto. La vacanza purtroppo non sempre è una vacanza, ma diventa quasi un lavoro quando si ha a che fare con gli spostamenti e tutto il resto. Quindi trovare un posto perlomeno umanamente accogliente, credo sia Già uno fa fatica ad arrivarci, poi arriva e si trova le facce storte di gente che non ti accoglie senza neanche cercare di capire, no, così non va. Grazie Jacopo. Grazie e buone vacanze. Jacopo Meglio, ciao, borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Marco da Cagliari ci scrive al 349-238-6666. Mi permetto di fare una piccola correzione, visto che l'anonimato in rete è il mio settore, esistono metodi praticamente impossibili da intercettare. È lì che volevamo arrivare, perché Maroni era diciamo, un po' ottimista sulle potenzialità, sulla capacità insomma degli strumenti di controllo in rete. Sicuramente ci sono, sicuramente bisogna investire, perché è un po' come col doping, mi viene da dire, cioè l'antidoping deve essere aggiornato perché il doping va più veloce, e qui chi si vuole nascondere sul web ha degli strumenti potentissimi. Chi li vuol fermare deve aggiornarsi, perché il paragone che ha fatto Maroni, mi viene in mente adesso di dirglielo, avrei dovuto dirglielo durante l'intervista, con le intercettazioni telefoniche degli anni 70-80 su Gheddafi. Allora c'era solo il telefono, bastava controllare le linee telefoniche, adesso devi controllare miliardi di vie sotterranee che sono appunto il web. Giorgio da Crema, buonasera. Ciao. Buonasera. Ascolti, io sono forse fuori tema perché intervengo dopo che avete affrontato molti argomenti. Però io sono anche un po', come dire, guardo anche un po' con tenerezza tutte queste persone che intervengono e che avrebbero a loro modo dei provvedimenti, sì, contro, proposte, soluzioni. Proposte, sì. Eccetera. Io direi una cosa, molto semplicemente, sono molto breve. Penso che bisognerebbe chiedere al Mossad come ha fatto per contenere il terrorismo dal quale è circondato. Penso che sia lo Stato. Loro sono sicuramente tra i massimi esperti, questo sì, questo sì. Il secondo punto è questo, una cosa che molto probabilmente avete paura a denunciare, sì. Ad enunciare. Anche se, scusa Giorgio, voglio fare una puntualizzazione, scusa se ti interrompo il filo, però sul discorso del Mossad, va bene, però quello che è accaduto in Francia dimostra che non è un problema di servizi di sicurezza, di servizi segreti, perché quei due erano già schedati, si sapeva tutto di loro, che potevano diventare terroristi, la polizia lo sapeva. Guardi, a me il governo Hollande non è molto simpatico, però sinceramente e onestamente, pensare che il governo Hollande non abbia fatto quello che era nelle sue possibilità mi sembra una menzogna. Quindi io credo che andare a cercare... quindi secondo lei è normale che due che sono due potenziali terroristi, uno che ha cercato di andare in Siria ovviamente per diventare un combattente di quel tipo di guerra, di guerra santa, dell'ISIS, eccetera, è normale che non venga controllato e che possa poi andare a fare un attentato, perché di più non si poteva fare. Sì, ma questo deve capire che ognuno commette i propri errori, hanno le proprie manchevolezze, e pensare di fronte ad un problema di questo tipo di riuscire a criticare l'uno o l'altro sui singoli sui singoli eventi non è così facile. No, ma infatti la mia non è neanche una critica, è semplicemente una constatazione, una domanda che mi faccio. Vai Giorgio, continua. No, ma lei è correttissima nelle sue domande. Io invece le stavo dicendo una cosa, e dicevo, io penso che voi abbiate paura addirittura a fare anche un tipo di pensiero. E ve lo spiego, cioè ho trovato che il ministro Maroni, pur... qual è il pensiero, Giorgio? Vai a bomba, vai a bomba. Allora, la bomba è questa qua. Scusate, ma vi sembra così strano che il terrorismo non arrivi con un Kalashnikov dentro una corsia d'ospedale, dentro una scuola elementare, dentro un supermercato qualunque, quando è la cosa più facile al mondo? Non c'è più necessità di atti dimostrativi come le Torri Gemelle o altro. Quindi questo è il livello di attenzione che dobbiamo avere, cioè ad un certo momento continuiamo tutte le volte a stupirci che è stato sgozzato anche un prete. Ma quello lì è un gioco da ragazzi, scusate, basta un coltello e un temperino. Assolutamente, assolutamente. Ripeto, la cosa assurda è che si spendono soldi, si investono tantissimi soldi nei servizi di sicurezza, nei controlli, nei magistrati, nella polizia che arresta, ferma, controlla, eccetera, e poi queste due persone, conosciute e schedate, fanno quello che fanno. Questa è la domanda che mi faccio, le risposte non ne ho. Comunque grazie Giorgio, buona serata. Andiamo con Daniele da Bologna. Pronto? Ciao Daniele, buonasera. Io volevo intervenire sulla questione della legalizzazione. Sì. Io ho 35 anni e ho due bambini piccoli. Sì. E quindi penso di avere il proverbiale buonsenso del padre di famiglia. E cerco di usarlo con i miei figli e non capisco per questo ragionamento per cui diciamo che fa male, la vogliamo legalizzare, così si usa di meno. Io credo che uno Stato intelligente, giusto, deve dire, se prende anche una posizione morale, senza esagerare, però o diciamo che non fa male e allora però diciamo possiamo che anche è legalizzato. Dirlo. Possiamo anche dirlo che non fa male la cannabis. Possiamo anche dirlo. Perché ma fa male l'alcol, fa male Daniele. Senso, ma dire non fa male, ma per evitare che la gente la fumi, la legalizziamo, mi sembra una cosa completamente... illogica. Poi che può anche funzionare, però se io sono a Bologna, nel mio quartiere c'è uno spacciatore, lo sanno tutti che è lì, e la polizia, che fa capo al Ministero degli Interni e ai politici come Maroni che è intervenuto prima, non gli danno le leggi che gli consentono di prenderlo e metterlo in galera, lo sanno tutti che spaccia. Così uguale anche ai terroristi, così uguale anche alla prostituzione, che diciamo che non è una cosa bella. Io non vorrei mai che, se ho una figlia, pensasse che quello è un lavoro come tutti gli altri, però diciamo che non si può risolvere, non si può risolvere, ma lo sappiamo benissimo che ci sono prostitute e dove sono e dove ricevono, però sappiamo che ci vanno i nostri politici e quindi non c'è una legge che permetta coerentemente con quello che diciamo di farlo. Non so se mi sono spiegato. Ti sei un po' avvitato, secondo me, Daniele, secondo me, ti sei un po' avvitato. Tutte queste cose che tu dici sono vere, però attualmente sono tutte cose proibite che avvengono sotto i nostri occhi. Quindi c'è qualcosa che non va nel modo in cui fino ad ora abbiamo proibito queste cose. Quindi o le proibiamo ancora di più e spendiamo dei soldi, investiamo dei soldi anziché per fermare l'ISIS, per fermare quelli che si fanno le canne, oppure facciamo un passo indietro e legalizziamo. Questa è come la vedo io. Comunque grazie Daniele, buona serata a, come si pronuncia, Kobage da Ferrara. Sì, Kobage da Ferrara. Sì. Ciao. Ciao, buonasera. Dunque, niente, io volevo intervenire per esprimere che il mio parere a proposito del discorso che ha fatto il Papa oggi, che è un discorso secondo me di altissimo livello, perché ha detto che c'è una guerra, ma non è una guerra di religione, ed è secondo me la sacra verità, insomma. Perché la verità secondo te? Perché? Perché se noi facciamo un conto al mondo, premetto che sono musulmano io, Sì. Al mondo ci sono 1.300.000.000 di musulmani e quelli di Daesh, che sarebbero sì o no 20.000-30.000 nel massima stima che ha fatto la CIA di loro, e allora perché queste 30.000 dovrebbero rappresentare l'Islam? No, ma non rappresentano l'Islam, però ho paura che dire non è una, anch'io penso che non sia una guerra di religione, nel senso che muoiono moltissimi musulmani, quindi è una guerra dove le religioni però sono presenti, sono coinvolte. Nasce tutto nel campo di chi si rifà all'Islam e l'ISIS è questo, se no si chiamerebbe Stato Islamico. Poi anche secondo me non è una guerra di religione, perché muoiono anche quelli di quel campo lì. Però ho paura che dire non è una guerra di religione sia come dire la religione non c'entra. E invece la religione mi pare che c'entri, o no? Dunque, no, è un pretesto, perché utilizzano la religione per fare loro comodo in sostanza, perché è un gruppo terroristico, sono dei criminali che utilizzano la religione come pretesto, sì, per poi fare loro... Persone azione. Anche molto diverse tra di loro, non sono tutti, esatto, affiliati, sì, all'ISIS, sì, non sono tutti manovrati da una cellula che sta in Siria o in Afghanistan, sono anche persone, no, che agiscono di testa loro. E che hanno in testa che cosa? Non lo so, un'idea di purezza, ecco, un'ideologia di purezza. C'è da distinguere due gruppi, secondo me. Ci sono quelli pazzi che fanno azioni dimostrative che poi l'ISIS le rivendica perché così ha più visibilità, che secondo me non c'entrano niente con l'ISIS, e quelli sono pazzi, punto. E ci sono gli altri, quelli invece che sono veramente, diciamo così, affiliati in qualche modo all'ISIS, allora questi qui sono diciamo più motivati dal punto di vista, diciamo così, religioso. Ecco. Va bene, grazie Kobace, ciao, buona serata. Adesso mettiamo un piede in Chinatown. Il mio appartamento è situato ai bordi di Chinatown. Cante di negozi tipici tecnologici, e dietro a un vecchio garage, a pochi passi da me, c'è una discoteca cinese, la frequento da un mese, dai andiamoci, vieni insieme a me a ballare sulle note di Shanghai, e la disco dengue, senti che fa dengue. C'è un disjockey del Sichuan, vedrai che roba, David Guetta lo rispetta. Centro benessere al posto del privé, scegli free massaggio oppure free drink, vedrai che sorpresa, China Disco Bar. Allora, buonasera, è con noi Ujan Zhu Aji, penso di aver pronunciato bene, spero, titolare della ravioleria Sarpi a Milano. Sì, sono io, Agi, sì. La pronuncia, ciao, è perfetta. Bah, fantastico, quindi ti posso chiamare Agi. Sì, assolutamente, sì. Allora, è il nome che mi chiamano anche tutti i miei amici cinesi in famiglia. Perfetto, Agi. Perfetto. Allora, è tua la ravioleria cinese di Via Sarpi, che è stata riconosciuta, premiata in qualche modo dal Gambero Rosso come miglior street food, cibo di strada, quindi, ho capito bene, della Lombardia? Sì, della regione Lombardia noi siamo il premiato. Ah, con tante cibarie, anche italiane, perché per qualcuno questa potrebbe non essere una buona notizia. Come dire, non ci sono più i chioschi dove si mangiano le cose luride, grasse, buone, italiane di una volta. Adesso premiano i ravioli cinesi. Però evidentemente Gambero Rosso avevano i loro gusti. Devo dire che è stato una grande fiducia da parte di Gambero a segnare questo premio noi, perché poi io vado pazzo per i ravioli cinesi, vado veramente pazzo, cioè per me battono tantissime cose, non dico tutto perché ci sono altre cose, tipo il panino al lampredotto, che abbiamo anche, sì, è un piatto favoloso, è un piatto poi che in Cina si mangia in tutte le situazioni, in tutte le famiglie. Ecco, ma i tuoi clienti sono più italiani o cinesi? Domanda stupida, tutte e due. No, sono misti assolutamente. Sì. All'inizio ci sono stati più clienti cinesi, sì, per vedere, poi sono arrivati subito i clienti italiani della zona, e anche loro ci hanno dato grande fiducia. a venire subito a provare un tra cui anche il nostro collega nuovo. Lorenzo Nespoli, lo salutiamo, che tutti sappiamo che abita in quella zona, e appena abbiamo citato la notizia ha detto: ah, si mangia da Dio, ci vado sempre, c'è una coda lunghissima. Quindi Gambero Rosso non ha sbagliato del tutto. Senti, la cosa della cucina cinese, il luogo comune è sì, è buona, ma chissà cosa ci mettono dentro, si dice, no? Esatto. L'idea mia di aprire questo posto qua è proprio quello di rompere questa idea, perché alla fine è una idea comune, ma tante volte è anche vera, perché spesso e volentieri in ristorante i piatti non si vedono come vengono cucinati, non si sa quali ingredienti vengono usati. Cioè, tu dici spesso e volentieri in generale nei ristoranti o anche nei ristoranti cinesi di qualche collega che non fa le cose come si dovrebbero? Ristorante cinesi, perché sì, alla fine è comune, soprattutto per un piatto come i ravioli, che di per sé è richiuso, c'è cioè l'impasto, tutti dicono che è buono, spesso e volentieri non capiscono che cosa c'è dentro. Appunto, l'idea è appunto di aprire un posto con un prodotto semplice, un piatto semplicissimo, dove tutto viene fatto un momento, tutto a vista, in maniera trasparente, in modo che i clienti, quando arrivano, prima di tutto vedono quali ingredienti vengono utilizzati per fare i nostri ravioli. Ecco, tra l'altro, poi li vedono fare al momento. Ecco, sì, perché intanto se ti va di darci la ricetta, noi ce la segniamo, ce la mettiamo lì, perché se sei il miglior street food della Lombardia, una certo, ragione ci sarà. E poi, perché le cuoche, sono tre cuoche, se ho capito bene, stanno tutte dietro a un vetro, quindi si vede tutto, volutamente, questa è l'idea forte. Assolutamente. No? I ravioli vengono, l'impasto viene steso al momento sul tavolo di lavoro, viene messo in ripieno, viene chiuso al momento, poi nel momento che arriva il cliente li montiamo anche a cuocere al momento, in giro di 5-6 minuti sono preparati i ravioli e di solito li portano via e li mangiano per strada. Ecco, perché insomma, noi siamo è un posto piccolissimo che non c'è neanche un posto per sedere. Quindi proprio si acquista e si va via. Tu hai voluto proprio, è una storia particolare la tua, arrivi in Italia che sei già adolescente e però poi ti inserisci, ti integri, ti laurei addirittura alla Bocconi. Sì. Però con questa, stato... con questa idea, scusami Agi, praticamente tu hai rovesciato proprio il luogo comune della chiusura dei cinesi, perché è vero che questo è il segreto della comunità cinese, l'impermeabilità, no? Sì, e spero che sia sempre di meno nel futuro, perché comunque l'Italia ormai è un posto aperto, cioè soprattutto in Chinatown si vedono tanti miscugli di culture, ed è la cosa più bella di questa zona, è l'incontro proprio della cultura cinese con la cultura italiana, ed è per questo che è nato la mia ravioleria, perché la ravioleria è nata non solo da mio sogno, perché è stato un lungo sogno mio, ma grazie anche all'aiuto di tutte le persone che mi circondano, che sono italiani. Perché per esempio la carne te la fornisce la vicina macelleria, italianissima per esempio, vero? Sì, la carne viene fornita da questa macelleria storica di Milano di 1930, siamo proprio divisi da una parete, cioè proprio attaccati. Quindi funziona questa sinergia italo-cinese, funziona secondo assolutamente. Te? Assolutamente, guai senza, perché... Tu sei fidanzato, sposato, posso chiedertelo? Sì, sono sposato, ho due bambini bellissimi. Con una italiana o con una cinese? Con una ragazza cinese. Ci sono coppie viste lì in Chinatown a Sarpi? Sì, ci sono. Girare, sì, è vero. E vengono da noi, cioè è una cosa molto comune. Senti, ma Agi, ti devo dire una cosa. Allora, sicuramente qualcuno che ci ascolta e che sta pensando adesso questo pensiero, che il fatto che ti hanno premiato a te è in realtà una manovra, una cospirazione, no? Il complottismo è tutta una manovra per favorire il predominio della Cina per ragioni inconfessabili, economiche, nel mondo, eccetera. Lo sai che qualcuno sta pensando questo? Pensato in questa maniera, però posso abbastanza dire che non è assolutamente così. Mi hanno fatto sapere qualche giorno prima del premio e non so niente come hanno valutato quando sono venuti a provare, assolutamente erano proprio ignari di tutto ciò e sicuramente è stata una grande fiducia da parte di Gambero a dare un premio di questo tipo a noi, ma in realtà è un premio non ai cinesi, ma è un premio a un incontro della Cina e l'Italia. Però la ricetta non ce l'hai data, non ce l'ha, non la ce ricetta, la dice. Sì, è molto semplice. La ricetta sono per me, che io in realtà non vengo da una storia di ristorazione, cioè questo è un posto, proprio il primo posto che ho fatto come ristorante. Per me è la semplicità del prodotto, perché noi facciamo solo ravioli e di tre tipi, e poi la selezione del prodotto, degli ingredienti che vengono usati. Intanto la ricetta non ce l'ha stata, giustamente, perché uno non si fa premiare al gambero rosso per poi dare la ricetta in diretta a chiunque. No, la ricetta è semplicissima, perché i ravioli di manzo che facciamo noi, che è quello più rappresentativo della nostra ravioleria, è fatto da la farina bio nell'impasto con un po' di acqua, senza uovo, perché noi non usiamo uovo nell'impasto. Senza uovo, E aggiungiamo un po' di curcuma bio per dare un colore giallo, curcuma, all'impasto. Nel ripieno mettiamo la carne di manzo bio, buonissima, tritato, e viene aggiunto lo zenzero fresco macinato, il poro macinato poi viene aggiunto una pepe di Sichuan, che è un po' particolare, che viene coltivato in Cina. E tutto questo viene girato nell'impasto a mani per tante volte, in modo che tutto viene ammagato bene. E poi viene chiuso il raviolo e viene cotto in acqua per 6 minuti. È un tortellone praticamente. No? È un tortellone cinese, ma non ha, in realtà è ripieno diverso, ma abbiamo anche tanti ravioli in Italia. Grazie Agi, in bocca al lupo e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Chiudiamo con Francesco che chiama da Roma questa sera, buonasera, ciao Francesco. Buonasera Maurizio. Allora, Maurizi. Maurizio. Perché sennò non va bene, non ci siamo. E questo è il massimo effetto di quello che mi sono fumato. Ah, ecco, vedi? Un cognome. Ti sei fumato? Cosa ti sei fumato? Mi sono fumato un ostinello, lo faccio giornalmente, lo faccio da quando ho 14 anni, ne ho 46, lavoro, ho una compagna che ho parcheggiato lontano in macchina in modo che mi può ascoltare la radio e non disturba la conversazione. Non ti perché la compagna è molesta e ti dà fastidio? No, perché spesso mi hanno detto di spegnere la radio, eravamo in macchina insieme, okay. E così lei mi può ascoltare. Sì. Ma guarda, il concetto è semplice, arrabbiarsi, hai visto Alfano, ha un muso sempre un po' arrabbiato, muove 54 muscoli del suo viso. Alfano è sempre arrabbiato, questo non l'avevo mai sentito, però tende ad avere un'espressione seria. Uno spinello, ne muoverebbe 7. Di meno, quindi sarebbe più alleggerito. Molti di meno. Io capisco che ci sono interessi sotto. Cioè fino a non muovere nulla e avere un'espressione pesce lesso, scusami. Le forze in un altro senso, come è il tuo pensiero, combattere quello che è veramente un pericolo. Io lavoro in un luogo pubblico, non te lo voglio dire perché magari mi riconoscono dalla voce, dalla smuscia. Però comunque io adesso, come vedo uno zaino, o una persona che non è del mio stesso colore di pelle o magari ancora è un sussulto come tutti. Francesco, devo chiudere, ciao, grazie, buona serata, è tutto anche per questa sera. Un ringraziamento a Riccardo Poli, Leonardo Siligato, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani 18:30-20. Ciao da Alessio Maurizi, buona serata.